Domenica scorsa, mentre ascoltavo l'amico Akame che parlava tra l'altro del singolare destino ideologico della figura di Socrate, mi è venuto in mente che di pochi personaggi nella storia del pensiero umano si esalta tanto il contributo senza avere la minima idea di che cosa abbiano detto. Su di lui in effetti possediamo un certo numero di attendibili informazioni biografiche, ma del suo pensiero non sappiamo assolutamente nulla, per l'ottimo motivo che né lui né altri si sono mai presi il disturbo di informarci in merito. Socrate, si sa, non ha lasciato niente di scritto, e su quanto ci comunicano in argomento Platone e Senofonte, che si dichiarano tutti e due suoi discepoli, è legittimo avere i più forti sospetti. Entrambi hanno una certa tendenza a mettere in bocca al maestro le proprie personali dottrine, e se di dottrine nel caso di un allocco come Senofonte si può parlare, e nessuno è mai riuscito a elaborare un criterio qualsiasi grazie al quale distinguere nelle loro testimonianze divergenti e spesso contraddittorie l'eventuale presenza di elementi socratici genuini. Una terza testimonianza in realtà ci sarebbe: la caricatura contenuta nelle nuvole del grande Aristofane, un autore che rispetto ai due succitati ha se non altro il vantaggio di aver operato negli anni in cui Socrate era vivo e tutti ad Atene lo conoscevano e non decenni dopo la sua morte, ma visto che si tratta di una fonte scomoda che mette in discussione in anticipo tutta la vulgata socratica posteriore, si è preferito cassarla senza pietà, sostenendo che quel comico, bizzarro come tutti i suoi colleghi, gli ha attribuito chissà perché l'esatto contrario delle sue idee, che non so voi, ma a me sembra un modo piuttosto curioso di mettere qualcuno in caricatura. Ma tant'è. Per noi, in definitiva, l'idea di quello che molti considerano il fondatore della filosofia occidentale, tanto è vero che chi viene prima di lui di solito è retrocesso al ruolo di precursore e inquadrato nella sommaria categoria dei presocratici, quelle idee restano un libro chiuso. Il che non ha mai impedito a nessuno di esaltare il personaggio, di farne anzi il prototipo di ogni sapienza e virtù. E pazienza per l'epoca in cui la venerazione per Socrate era in sostanza un riflesso di quella per Platone. Ma è strano ritrovare un atteggiamento sostanzialmente simile in età moderna, ad opera di pensatori che di solito vengono considerati quanto più lontani dal platonismo si possa essere. Se Jeremy Bentham, che passa per uno dei fondatori del pensiero positivo, soleva illustrare il concetto per cui i piaceri si distinguono anche sul piano qualitativo, affermando che è sempre meglio essere un Socrate insoddisfatto che un maiale soddisfatto, Sir Karl Popper, che del pensiero positivo per molti è la fiera contemporaneo, dedica un centinaio abbondante di pagine del suo Platone totalitario, il primo volume della Società aperta ai suoi nemici del 1943, all'impossibile tentativo di esonerare il maestro dai vituperi che lancia contro l'allievo. Popper, come noto, ha scritto una miseria dello storicismo, quindi non è il caso di stupirsi se in quell'opera troppo famosa mescola con disinvoltura categorie antiche e moderne, e per fare di un personaggio che, a quanto ci risulta, era in rapporti stretti con i peggiori reazionari della sua epoca, un campione dell'autonomia intellettuale e un precursore del libero pensiero. Il fatto è che tra filosofi si può litigare, ma alla fine si finisce per intendersi. E la filosofia non è nociva soltanto perché, come meglio di me vi potrebbe illustrare Felice, e fonda le sue proposizioni su una certa insidiosa metaforicità. E anche soprattutto per via dello straordinario successo che vi ha riso storicamente sul piano dell'autovalidificazione. Per essere riuscita a far accettare praticamente a tutti la pretesa di rappresentare, tra le procedure e le discipline intellettuali, la procedura e la disciplina per eccellenza, è quella con i cui criteri si verificano o si falsificano le altre. In questo modo si è costituita come una sorta di forma arcana del sapere, che proprio per essere arcana, nel senso di irremediabilmente ostica ai non specialisti, è sottratta alla discussione dei sudditi e ne garantisce il consenso. E dico sudditi perché se nessuno oggi è così ingenuo da sostenere come Platone che solo ai filosofi si debba affidare il potere, ogni potente può comunque contare, se non su un filosofo, almeno su una filosofia, dietro cui nascondere i propri interessi e con cui ammantarli della speciosa definizione di bene comune. Ma visto che anche in questo campo la concorrenza è agguerrita, deve essere comodo disporre di una figura di riferimento che va bene per tutti, di un filosofo per così dire in bianco, di cui non si sa nulla se non che è stato appunto un filosofo e dei sommi, e con cui chiunque si può identificare senza che dal suo pensiero debbano temersi confutazioni dirette o indirette. Un filosofo, insomma, che persino un Buscio, un Berlusconi, per fare due nomi di potenti a caso, potrebbero citare senza lasciarsi sfuggire come al solito le più immani cazzate. L'ipse dixit, a pensarci bene, funziona al meglio quando l'ipse in questione non può dire niente.